si è scoperto che l'espansione accelera, per esempio, e non sappiamo. È molto aspra sui rapporti tra la scienza e la società. Da poco tempo fa le applicazioni della scienza. Il gas è lo stato più semplice in cui si trova la materia. La libertà di poterlo ridistribuire e modificare. La cultura scientifica, vuol dire, è qualcosa di immenso. Caccia al fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. E sono le 10.31 di questo sabato 6 dicembre 2008 e benvenuti ad un'altra puntata di Caccia al fotone. 3380 9494 per inviare un sms. E cacciafotone@radiocittafujiko.it per inviare una mail. Sito di riferimento www.cacciafotone.it. E beh, quest'oggi parleremo di un argomento di cui avete sentito parlare oramai in tutte le salse, ovvero il metaverso, i mondi tridimensionali, meglio noti come Second Life e affini. Però quest'oggi non sentirete parlare del famoso software della Linden Lab, ma di OpenSim, un mondo virtuale, tridimensionale, open source. E per parlare di questo ne parleremo con Zogia Zabelin, con Giunta Coime di OpenSim Italia. E in fine di trasmissione parleremo anche di come si può fare della buona divulgazione scientifica nel metaverso. Insieme a chi? Insieme a Intelliverso Barbosa. Ovviamente la console, versione Second Life, Jolek Allen. E adesso ci andiamo ad ascoltare un po' di musica, questi sono i Moms con I Could Understand. We'll be right back. e bentornati a Cacciafotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. E al telefono abbiamo Zoja Zabelin di Open Sim Italia. Zoja, sei in collegamento? Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Cominciamo a parlare veramente di questo cosiddetto Open Sim. In realtà io ti ho contattato perché ci siamo conosciuti su Second Life, che in realtà è il mondo virtuale per eccellenza, però lì ho conosciuto questo mondo virtuale un po' particolare. Allora, prima di introdurre Open Sim, quindi prima di parlare di questi mondi virtuali, cominciamo a sentirci i suoni di questi mondi virtuali. Riconosci qualcosa? È il volo, questo è il classico volo. Esatto. Zoja, cerchiamo di ripresentare un attimo l'argomento, cioè che cos'è esattamente questo mondo virtuale di cui parliamo tanto spesso? Dipende da cosa si intende, nel senso che molte persone lo vivono come una vera e propria seconda vita in cui fare tutto ciò che non fanno nella prima, altre persone invece lo vivono come un arricchimento della loro prima vita. Mondo virtuale, quindi una realtà proprio tridimensionale in cui immergerci attraverso un altro se stessi, che è l'avatar, un pupazzetto come lo chiamano alcuni, che interagisce secondo i nostri comandi con questo mondo. In realtà i mondi virtuali poi non sono nati effettivamente per divertirsi o vivere una seconda vita, ma sono nati per un altro scopo in realtà, forse. Sì, probabilmente sì, sono nati per vari sviluppi, anche i programmi, possibilità anche lavorative per aziende, per grosse multinazionali probabilmente. Noi nello specifico ci siamo avvicinati al 3D a livello ludico, cioè proprio per passare del tempo in maniera piacevole, almeno per quanto mi riguarda. Sono stata attirata dalle potenzialità del 3D perché era possibile dare un corpo alle mie idee senza dover affrontare spese particolari o troppo elevate. Era possibile praticamente per me dare vita, anche se solo virtualmente, alle idee che avevo in mente. Poi potevo conoscere persone che avrebbero comunque stimolato la mia mente, mi avrebbero aperto anche orizzonti nuovi, e così è stato alla fin fine. Quello che mi ha attirato è stato questo. Senti Zoja, io voglio il gossip. Come ti sei avvicinata effettivamente a questi mondi virtuali? Il gossip che normalmente trovi nelle altre persone, cioè magari non so, l'essere stati attirati da comunità o da qualcosa di particolare, probabilmente anche qualcosa di piccante, perché comunque c'è anche la realtà piccante nei mondi virtuali, da me sinceramente non lo trovi. Io veramente sono stata attirata dalle tantissime potenzialità che ci sono nel virtuale, nel mondo 3D, nel metaverso, perché veramente lì si può spaziare in una maniera incredibile dentro noi stessi. Alla fin fine è come fare un viaggio dentro noi stessi, tirando fuori quello che può anche esserci di meglio a livello di idee. Le idee sono incredibili, c'è una mole di idee e si sviluppano con una velocità che detto da fuori non è presentabile, non è riferibile, un qualcosa che veramente affascina. Quando si è dentro è affascinante quante e quali sono le idee che vengono sviluppate nel mondo virtuale. Senti Zoja, io vi ho conosciuti su una land di Second Life che è Vulcano. Quando vi ho conosciuti però voi mi avete parlato quasi subito di Open Sim. Ora, facciamo finta che io sia un neofita, quindi che io non sia mai entrato in Second Life. Provami a convincere che Open Sim, cioè la cosa di cui parleremo effettivamente oggi, è migliore di Second Life o di qualsiasi altro mondo virtuale che c'è in giro. Allora guarda, premetto subito che fino a un anno fa non ti avrei assolutamente consigliato Open Sim, perché Open Sim è un'emulazione del mondo virtuale di Second Life e di altri mondi che fino a un anno fa era assolutamente, a mio giudizio, improponibile per un neofita, perché era difficile da gestire, essendo una versione alfa c'erano tantissimi problemi, c'era proprio difficoltà di interazione, mentre invece ora mi sentirei di consigliartelo assolutamente, perché comunque è un mondo che è estremamente personalizzabile, cioè c'è il controllo su tutto, tutto, ogni minima parte di questo mondo è sotto il tuo diretto controllo e puoi personalizzarla secondo le tue esigenze, puoi addirittura sviluppare, implementare delle funzioni nuove che siano proprio relative a quello che tu chiedi da questo mondo. È difficile comunque avvicinarsi a questo mondo, nel senso che non è pubblicizzato come possono essere altri mondi virtuali, per cui è molto più probabile arrivarci magari perché si sente un amico, così come nel tuo caso con me mi hai sentito parlare di OpenSim come un mondo a sé stante. Sì. Zoria, senti, quando è nata effettivamente la community italiana di OpenSim? Perché di OpenSim insomma possiamo parlare in maniera più estesa, però ci sono varie sezioni di OpenSim e poi c'è OpenSim Italia, in cui c'è Cyberlandia, che è la land dove vengono sviluppati tutti i progetti italiani. Come è nata questa community? Guarda, il nostro gruppo, nello specifico OpenSimita, ha ricalcato un po', diciamo, le modalità di nascita del... Abbiamo perso il collegamento, adesso mettiamo un pezzo musicale e poi torniamo subito in studio. Classici problemi tecnici ci sono sempre. Però siamo in collegamento con Zoggia. Buongiorno Zoggia, ti abbiamo perso al telefono, ma ti abbiamo subito recuperata. Ma di buongiorno, un crash anche qui. A proposito, i crash su OpenSim sono frequenti oppure no? Sono sempre meno rispetto all'inizio. All'inizio erano frequentissimi, adesso man mano che il programma viene sviluppato e viene sistemato sempre meglio, ovviamente diminuiscono anche i crash, perché i crash sono dovuti a dei problemi che man mano vengono risolti proprio dalla comunità che lavora secondo la modalità OpenSim del costruttivismo sociale, cioè mettere tutte insieme le conoscenze, collaborare in maniera proprio assoluta per sistemare i problemi e implementare nuove funzioni. Zoggia, prima di salutarci in maniera indecorosa tramite il telefono che cadeva, stavo parlando della nascita di OpenSim Italia, quindi ritorniamo sull'argomento: come nasce e certo, come viene sviluppata e come conoscete OpenSim? Sì, ti dicevo, il nostro gruppo appunto OpenSimita è nato alla fin fine da un interesse comune. Sì, abbiamo fatto degli incontri in cui si parlava del mondo OpenSim, degli Open Simulator, e ci interessava questo mondo, e quindi assieme a Giunta, a Coime, a Salazar e a Vitek abbiamo deciso di iniziare questo percorso per portare avanti le nostre idee che riguardano soprattutto il mondo dell'educazione, le possibilità di utilizzo appunto di OpenSim anche all'interno di questo mondo. E poi comunque c'è anche da dire che appunto, come citavi tu, Cyberlandia e altre persone praticamente hanno dato vita ad altri progetti che viaggiano in parallelo. So, fra queste persone posso ricordare Carlos Rondel, Open Source Obscure, sono persone con cui comunque collaboriamo. Noi stessi abbiamo le nostre sim, cioè i nostri territori all'interno di Cyberlandia, per cui la collaborazione proprio è la parola chiave, collaborazione è la parola chiave del mondo OpenSim in genere. Giorgia, l'ultima domanda che ti voglio fare prima di mettere un pezzo musicale e passare poi la parola a Giunta Coime. Effettivamente, visto che questi progetti stanno partendo da una land di Second Life che si chiama Vulcano, effettivamente qual è il nodo di connessione fra Vulcano e OpenSim? Il nodo di connessione è praticamente che si parte quasi sempre da un mondo virtuale per arrivare ad OpenSim, e noi nello specifico ci siamo incontrati a Vulcano, che è una land messa a disposizione gratuitamente da David Orban per tutti coloro che hanno voglia di sperimentare. Infatti lo spirito delle persone che frequentano questa land è di sperimentazione, di divulgazione e di messa in comune della conoscenza, per cui alla fin fine è stata una culla naturale per questo progetto. Sì, anche perché su Vulcano sono incentivate la sperimentazione, non la costruzione, sì, di case personali. Assolutamente, la costruzione di case è proprio secondo le regole di autogestione della comunità di Vulcano. La costruzione di case non era gradita, ma proprio in virtù del fatto che ci sono tantissime altre cose che si possono sviluppare, provare, mettere in comune, per cui le case si possono costruire in qualsiasi altro posto di Second Life. Lì vale la pena provare altre strade, sinceramente. Benissimo. Allora, Zogia, io ti saluto, metto un pezzo musicale, ripasso poi la palla a Giunta Coime e poi torniamo in studio. Ti ringrazio, buona giornata a tutti. Ciao. Quella che ci andiamo ad ascoltare è At Your Feet. E recuperiamo subito il tempo perduto al telefono Giunta Coime. Buongiorno Giunta. Buongiorno a te Olek, buongiorno a tutti. Senti, prima abbiamo sentito parlare Zogia di tanti termini, la land, la grid. Effettivamente quali sono i termini più importanti da segnare su un taccuino per coloro che entrano per la prima volta nel metaverso, ovvero in questi mondi 3D del tutto particolari come Second Life e come OpenSim? Ma ce ne sono tantissime di vario utilizzo. Possiamo partire benissimo da grid, che innanzitutto sono tutti termini di origine inglese. Grid sta per griglia, in quanto come mondi virtuali la mappa, diciamo, di queste regioni viene impostata su una matrice bidimensionale e ogni regione ha una coordinata XY, quindi una giusta collocazione all'interno di questo mondo virtuale. Questa è la grid. Poi possiamo dire land o regione o sim, sono tutti termini equivalenti. Sim è l'abbreviazione di simulator, sarebbe in pratica la nostra isoletta, la nostra regione da 65.000 metri quadrati, 256 metri di lato, dove poi vengono costruite tutte le nostre attività. Ma ce ne sono altre come rezzare, che è un'italianizzazione del verbo inglese to rest, materializzare, quando costruiamo. In mare, instant message, IM l'abbreviazione, tippare, da teleport, e così tanti altri termini che diventano poi di uso comune dopo circa una settimana di frequentazione di questi mondi. Senti, parliamo effettivamente di che cos'è OpenSim. OpenSim effettivamente è un server, quindi un programma di riferimento, pure è un client, quindi un programma di connessione. Allora, OpenSim è un'applicazione, quindi un software, che diciamo per visualizzare questo mondo qui si avvale di un client, quindi lui è un'applicazione server. Ci sono diverse modalità di utilizzo, c'è la modalità stand alone, che quindi presuppone tutte le funzionalità in un unico programma, appunto OpenSim, come pure nel caso di griglie, come abbiamo detto prima, se si parla di Cyberlandia o altre grid a livello internazionale, che possono distribuire le varie funzioni come la gestione degli utenti, la gestione delle regioni, la gestione degli inventari, si possono distribuire su più computer e quindi sono diverse applicazioni server. Alla fin fine, dal lato utente, abbiamo sempre un visualizzatore che ci consente di entrare in questo mondo virtuale messa a disposizione dall'applicazione server. Ci sono diversi visualizzatori, possiamo utilizzare benissimo quello ufficiale messo a disposizione da Linden Labs, SL Viewer, possiamo utilizzare Hippo Viewer che è stato fatto dagli stessi sviluppatori che hanno fatto OpenSim, e ce ne sono poi anche altri, Real Extend e tanti altri che, diciamo, dal momento che Linden Labs misero a disposizione i codici sorgenti del loro viewer, da lì in poi gli sviluppatori autonomi si sono sbizzarriti nel creare e personalizzare questo programma. Effettivamente il discorso di cui dovremo parlare oggi, cioè il discorso di OpenSim, è che OpenSim è un sistema open source rispetto a Second Life, che è un mondo closed. Effettivamente open source cosa vuol dire? Io dove posso lavorare? Posso lavorare sull'applicazione client, posso lavorare sull'applicazione server, e se posso lavorare, in che modo ci posso lavorare? Beh, allora, innanzitutto adesso si può lavorare su tutte e due, sull'applicazione client e server. L'applicazione client messa a disposizione da Linden Labs, come dicevo prima, circa nel gennaio del 2007, diciamo, è a disposizione da quell'epoca, e i codici sorgenti, quindi avendo a disposizione il codice sorgente, i programmatori, insomma chi si cimenta in questo ramo scientifico, si può mettere lì e personalizzare aggiungendo funzioni o riducendo al minimo, visto che è anche un'applicazione abbastanza costosa in termini di risorse hardware del computer. Cosa possiamo fare? Abbiamo completa libertà sulla modifica a questo codice. Per quanto riguarda invece l'applicazione server, contrariamente a quanto annunciato da Linden Labs, dove disse che avrebbero messo a disposizione anche il codice sorgente del loro simulatore, cosa che ancora non è stata mai fatta, sempre da gennaio 2007 un gruppo di sviluppatori autonomi hanno iniziato a analizzare i pacchetti di dati scambiati tra Second Life e il suo visualizzatore, hanno fatto un'opera di ricostruzione, diciamo, di questo simulatore. Simulatore che è programmato in un linguaggio C#, il C con il cancelletto per intenderci, e rilasciato sotto licenza BSD. Cosa vuol dire? Che noi possiamo utilizzare questo software liberamente, a patto di citare sempre chi lo ha sviluppato, quindi il team di sviluppatori, chi ha contribuito, eccetera, eccetera, allo sviluppo di questo software. Lo possiamo includere in altro software, possiamo anche vendere volendo, nel senso non è preclusa questa possibilità. È ovvio che essendo disponibile gratuitamente è un po' difficile, diciamo, vendere questo software, però magari possiamo sempre in qualche modo vendere i servizi adesso collegati. Quindi effettivamente la grossa differenza è che Second Life, o almeno mondi virtuali molto simili, sono mondi virtuali closed, quindi si acquistano tra virgolette, mentre su OpenSim ci lavorano allo sviluppo tutti coloro che lo vivono questo mondo. Sì, nel caso di Open Simulator tutti, nel senso anche io, anche Salazar, Vitek, Zoja, e abbiamo sentito parlare prima di Carlos, Open Source per School, insomma tutta la comunità virtuale italiana e internazionale collabora al miglioramento di questa applicazione, cosa che invece dal lato, diciamo, Linden Labs non può avvenire, in quanto è un software proprietario di un'azienda e quindi fa parte del know-how aziendale e non viene ovviamente distribuito. Non è la prima volta che il server di Second Life viene chiuso solamente perché dovevano fare della manutenzione, magari qualcuno aveva pensato di fare una serata tematica e quella serata tematica non si è potuta fare solamente perché il server di Second Life è stato chiuso. Sì, diciamo che questa è stata una delle cause che ha spinto me verso OpenSim. Nel senso che ovviamente, diciamo, queste libertà che ci vengono offerte da un software open source come OpenSim comportano dall'altro lato oneri di gestione e amministrazione di sistema, però in un certo modo ti dà anche la possibilità di avere il completo controllo dell'applicazione, cosa che, come hai detto te prima, in Labs spesso sono costretti a manutenzioni non programmate e indipendentemente dalla pianificazione degli eventi che al giorno d'oggi ce ne sono abbastanza di molto interessanti, indipendentemente da questo chiudono i server, gli ingressi, e quindi ci ritroviamo tutti fuori. Diciamo, in questo modo mi ha spinto a andare a cercare cose alternative, come appunto Open Simulator, nel quale, diciamo, sono io quello che decido quando tenerlo acceso, quando tenerlo spento, e praticamente lo tengo sempre acceso. Dalla sperimentazione fatta singolarmente poi sono passato alla vita in comunità con le altre persone, perché, diciamo, una cosa più importante è, diciamo, la collaborazione con le altre persone, lo scambio e l'accrescimento culturale di ognuno. Giunta, ti faccio l'ultima domanda prima di salutarci. La versione OpenSim che sta girando in questo momento è una versione alfa. Effettivamente, qual è il futuro di OpenSim? Cioè, che cosa deve essere migliorato per diventare un sistema, tra virgolette, stabile? Perché il problema di OpenSim è che ancora non regge troppi utenti. Sì. Niente, se tu avessi visto OpenSim un anno fa, o addirittura all'inizio, nel senso, non ci saresti nemmeno avvicinato minimamente, come ha detto Giulia prima. Io mi auguro, nel senso, con la collaborazione di tutti, io ti dico che giornalmente vengono fatte 20-25 revisioni, c'è un sistema di segnalazione di errori, quindi tutti quelli che diciamo pionieristicamente lavorano, ma anche si dilettano in attività di costruzione all'interno di OpenSim, possono segnalare i problemi, e il team di sviluppatori, o anche te stesso, se ne hai la capacità e la voglia di farlo, può correggere questi problemi. Io auspico, nel senso, che questo sistema diventi sempre più stabile, nel senso, e che vada poi a costituire per i mondi virtuali 3D quello che Linux lo è per i sistemi operativi, o OpenOffice per le applicazioni di Office Automation. Quindi un programma, un prodotto stabile, nel senso, di utilizzo per le strutture, gli enti, diciamo, a indirizzo educativo, in poche parole le scuole, ma anche dalle aziende, che hanno in questo modo un mezzo potente a disposizione per fare formazione e altre attività in un mondo virtuale tridimensionale. Giunta, io ti ringrazio per aver partecipato, ringrazio anche Zogia per aver partecipato, che è accanto a te. Io vi saluto, e adesso andiamo a parlare di una iniziativa di divulgazione scientifica che ci sarà fra pochissimi giorni. Buona giornata a tutti e due. Buona giornata anche a te. Ciao. Adesso ci andiamo ad ascoltare Not Under My Control. Siamo di nuovo in diretta a Cacciafotone, giornata piena di incidenti tecnici. Ma al telefono siamo in compagnia di Intelliverso Barbosa. Buongiorno Intelliverso. Buongiorno, buongiorno Giolec, buongiorno a tutti. Senti Intelliverso, tu sei l'owner di una zona di Vulcano che è la zona Intelliverso. Ora, che cos'è Intelliverso e che cosa si fa a Intelliverso? Intelliverso è un'iniziativa per così diffondere la divulgazione scientifica, per cercare di portare quello che è stata la mia esperienza nel leggere divulgazione scientifica e fare un percorso di lettura, così, per condividerla anche con altre persone. E in questo senso ho creato un sito, ma il terreno fertile l'ho trovato appunto su Second Life, ma e su Vulcano in particolare. Senti Intelliverso, fra pochi giorni ci sarà un'iniziativa di divulgazione scientifica in cui si parlerà di scienza, di fisica della materia, di origine della vita. Esattamente che cosa sarà? Ma questa, come recita la locandina, vorranno essere quattro chiacchiere fra appassionati, per chiarirci le idee alla ricerca di risorse che rendano la scienza comprensibile a tutti. Quindi noi ci ritroveremo sotto un cielo notturno costellato di galassie, di nebulose, con meteoriti che sfrecciano da una parte all'altra, per parlare di scienza in modo semplice, per scambiarsi consigli, per ritrovarsi appunto fra appassionati. Chi parteciperà a questa iniziativa? Ma questa iniziativa, innanzitutto io devo ringraziare la comunità di Pyramid Café su Vulcano, che ha curato un po' la regia, e soprattutto Magic Fruit, che ha curato l'ambientazione e farà da moderatore. Parteciperanno tutti, chi vorrà, chi è appassionato e chi non lo è, chi vuol vedere e vuol sentire parlare di scienza. Non ci sarà però, almeno in questa serata introduttiva, un esperto, perché vogliamo proprio parlare terra a terra di questi argomenti, proprio tra di noi, e scambiarci l'esperienza. Interdiverso, io ti chiedo per ultimo di ricordare qual è il sito di Interdiverso, quando sarà questa serata e quali sono le coordinate per accedere. Sì, allora la serata sarà martedì 9 alle ore 21:30 sull'isola di Vulcano. Le coordinate le potete trovare o sul sito www.interdiverso.it oppure sul social network di Pyramid Café, all'indirizzo di pyramidcafe.ning.com. Interdiverso, io ti ringrazio e ti saluto, ringrazio anche Zoggia Zabelin e Giunta Coime di aver partecipato a Cacciafotone, una giornata piena di incidenti tecnici, ma insomma questo è il bello e anche il brutto della diretta. Io vi do appuntamento sabato prossimo, stessa ora, stesso fotone, e come al solito buona scienza a tutti.